4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. E ancora una volta buonasera, bentornati amici dei motori, Radio 24 insieme a Quattro Ruote e i suoi partner come Due Ruote si occupano di motori qui su Radio 24 ogni sabato alle 21 per circa mezz'ora. C'è Carmelo in regia, ci farà ascoltare tutte le voci ospiti di oggi. Roberto Rasia al microfono vi propone una puntata decisamente spaccata in due. La prima parte su Due Ruote, la seconda su Quattro Ruote. Oggi è invertito ovviamente l'ordine di importanza perché l'EICMA, lo sapete, l'esposizione internazionale dei costruttori di motocicli e accessori, è giunta al suo 66esimo salone importante a Milano, è diventato annuale ormai da qualche anno dopo che lo si divideva biennalmente con la Germania, e fino a domani sera avrete la possibilità a fine pomeriggio di recarvi, se lo vorrete, a vedere quanto di meglio il mercato delle moto oggi possa offrire. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi, per chi venisse da fuori, a Milano è finalmente possibile utilizzare la metropolitana linea rossa che vi porta direttamente, senza traffico, senza parcheggi, in fiera. Ci sarà un po' da camminare, la fiera è grossa, ma per questo contiene tante bellissime moto. Ne parliamo con Due Ruote, Luigi Rivolo e Fabio Cormio, e poi invece inchiesta Quattro Ruote. Dicevamo, mercato soffre, soffre di nuovo, soffre anche a ottobre. Ne parliamo con l'analista del Sole 24 Ore Paolo Malagodi e con il direttore del centro studi Fleet and Mobility Pierluigi Del Viscovo. Chiuderemo con la fondazione ANIA, che ha purtroppo dei dati negativi sulla mortalità su Due Ruote, così chiudiamo il cerchio. Luigi Rivola da Due Ruote, buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Fabio Cormio, ciao Fabio. Buonasera, ciao Roberto. Allora, iniziamo con l'aspetto più istituzionale. Che tipo di importanza ha questo salone, Luigi, per un mercato della moto che andrà a chiudere con una perdita sul 2007 di oltre il 5% quest'anno? Le previsioni sono attorno a un 6% al momento, corrispondenti a circa 30.000 pezzi invenduti. In realtà il mercato non sta andando così male, diciamo che se lo si paragona a quello dell'anno scorso, che è stato un buon mercato, certamente lo si può anche vedere sotto un aspetto negativo, però in realtà i numeri sono ancora molto elevati. E il problema è che non si capisce bene esattamente dove porti questa crisi, quanto influirà. Per esempio, la perdita che c'è stata in ottobre in sì. realtà non è stata neanche tanto elevata, considerando tutto ciò che è capitato alle borse in quel periodo, che certamente non invogliava all'acquisto, per cui un 5% di perdita non è neanche da considerare un drammatico, cosa di così drammatico, esatto. Anche e soprattutto considerando che il mese di settembre addirittura era stato inattivo rispetto al settembre precedente. Decisamente, certo, tu sai che i colleghi dell'auto soffrono molto di più, da ormai 9 mesi il segno è negativo, talvolta addirittura a 2 cifre percentuali. Credi che anche la manifattura motociclistica debba in questo momento, o già lo faccia, comunicare di più al pubblico? Avrai notato in televisione, sulla cartellonistica, molte case automobilistiche comunicano, hanno bisogno di tirar fuori questi prodotti, fanno sconti eccezionali nei concessionari. Più di una volta da questi microfoni abbiamo detto, insieme a Quattro Ruote, è il momento di comprare, sempre che uno possa, non di vendere. Secondo il mio punto di vista, le case costruttrici hanno sbagliato la comunicazione per molto tempo, nel senso che hanno insistito sempre mettendo in risalto in particolare le prestazioni, le moto di massimo livello. Sì. Per cui a questo punto, avendo spinto sempre e soprattutto le ammiraglie, c'è il rischio che la gente non si sia accorta che ci sono delle ottime moto anche in fascia più bassa, oppure che ci sono delle moto estremamente piacevoli e innovative. Faccio un esempio, la Briglia Mana, altre moto che presentano qualcosa di nuovo anche dal punto di vista tecnico, cambio automatico, sequenziale, moto da usare tutti i giorni e anche in tutti i viaggi. Certo, senza per questo vantare 150 cavalli con 180 kg. Esatto, però non hanno mai avuto una comunicazione adeguata. Altro esempio, non so, il Piaggio MP3 a tre ruote, che certamente è un veicolo eccezionale, innovativo da usare in città, però secondo il mio punto di vista presuppone una comunicazione più o meno simile a quella che la Piaggio fece a suo tempo per spingere un prodotto innovativissimo come la Vespa. Sì, certo, decisamente, molto chiaro. Seguiremo il mercato, starai con noi Luigi anche nelle prossime puntate, se lo vorrai, per seguire il post salone. Per ora grazie Luigi Rivola da Due Ruote, a presto e buona serata. Buona serata. Fabio Cormio, abbiamo in qualche modo visitato insieme il salone, su motoonline.com troverete anche performance video del buon Cormio, molto bravo anche in video devo dire, e ti chiedo un po' le principali novità di questo salone, una via l'altra, per fare proprio una specie di sommario per coloro che sono indecisi magari se andare al salone o no. Iniziamo con Ducati Street Fighter, attesissima. Sì, è sostanzialmente una 1098 spogliata, ma abbiamo parlato ieri col disegnatore di questa moto, Damien Basset, un francese giovane, una moto che ha fatto una moto veramente ben fatta. Qualcuno l'accusa di essere un po' troppo manga, un po' troppo giapponese, ma in realtà non lo è, intanto nel prezzo, visto che costa 15.000 euro nella versione base, 18.000 e passa nella versione S, che è dotata di controllo elettronico della trazione, però è veramente una moto molto bella, riprende il doppio scarico non più sotto la sella ma laterale, ha anche i nuovi carter motore, cioè quelli alleggeriti della nuova 1198, ed è una moto che fa veramente sognare, io credo la regina del salone, indubbiamente, c'era grande afflusso, lo vedrete se domani andrete al salone, allo stand Ducati, per questa Street Fighter, una vera moto da pista spogliata della sua carena e con un faro del grande design anteriore, diventa una naked veramente cattiva. Io semmai l'avrei avvicinata alle migliori MV Agusta, non alle giapponesi. Va bene, andiamo avanti invece con le altre novità. Honda e Yamaha, i due colossi. Honda presenta il SWT 400, un grande maxi scooter dalle dimensioni imponenti, che cerca di risollevare un po' le sorti, diciamo che Honda difficilmente soffre nelle varie fasce di mercato, nei maxi scooter però il Silverwing non stava più tirando molto, e arriva questo nuovo modello sostanzialmente rinfrescato nella linea, è sempre un bicilindrico 400, non si sa se arriverà anche una cilindrata maggiore. Naturalmente si è visto anche il prototipo V4, che dovrebbe aprire la strada alla nuova famiglia delle VFR, molto attesa. D'altra parte è una moto molto importante la VFR per la Honda, perché è proprio la bandiera tecnologica del marchio. La Hornet 600 non è certamente stravolta, ma ha le sospensioni regolabili e quindi si mette più o meno a livello di alcune concorrenti, e dovrebbe rafforzare così la sua leadership. Novità anche per l'SH 125-150, anche questo sono novità di dettaglio, rifatta la calandra davanti, ma soprattutto acquisisce il freno a disco posteriore. Per quello che riguarda invece la Yamaha, ha fatto un po' il colpo a sorpresa con la XJ6, una nuda molto ben disegnata, molto europea nello stile, 78 cavalli, quindi una 4 cilindri entry level, dovrebbe costare tra i 6.000 e i 6.500 euro, una moto veramente veramente bella. Bella, strizza l'occhio alla sorella 600, l'FZ6 evidentemente. Quattro ruote e dintorni. Al Salone del Ciclo e del Motociclo, visitabile fino a domani sera a Ropero, vicino a Milano, abbiamo trovato novità Ducati, soprattutto Honda e Yamaha con i loro sforzi commerciali. Chiudiamo Yamaha con Fabio Cormio di Due Ruote e poi dobbiamo parlare di Piaggio. Fabio. Sì, non abbiamo citato ancora il Majesty 400, il maxi scooter che molto ha venduto in questi anni, si ripresenta con un'estetica più accattivante, con dei colori molto in voga, ad esempio il bianco perlato che sta assolutamente spopolando quest'anno, ci è piaciuto molto, è piaciuto anche a Orge Lorenzo con cui abbiamo fatto due chiacchiere. Un altro oggetto che secondo me vale la pena di citare è il Piaggio MP3 nella versione LT, dovrebbe arrivare anche in Italia, sicuramente arriverà in Germania. Qual è la curiosità? Che è 250 e 400, ma può essere guidato non solo con la patente A ma anche con la patente B, sì, perché non è omologato come motociclo, ma come quadriciclo leggero, con una carreggiata delle ruote anteriori un pochino più allargata, il freno a pedale, ecco che il gioco è fatto. Un escamotage burocratico più che altro, ma per far guidare anche con patente B, e quindi coloro che non hanno la patente della moto. D'altra parte è un mezzo sicurissimo, quindi infatti, vale la pena. Molto bene, grazie anche per questa annotazione, Fabio Cormio di Due Ruote, a presto e buona serata. Grazie a te, Roberto. Roberto, grazie a tutti e buona serata. Adesso ve l'avevo promesso, aggiungiamo altre due ruote e parliamo del mercato dell'auto. Lo stiamo seguendo a stretto giro da ormai mesi, ci fa compagnia il professor Paolo Malagodi, analista del Sole 24 Ore. Professore, buonasera. Salve Roberto. Che cosa ci dice di questo mese di ottobre? Soffre quanto il mondo dell'auto? Soffre quello che è il clima generale di recessione economica. È chiaro che è un settore che è effetto e causa della crisi. Effetto perché la diminuita propensione all'acquisto in momenti di problematiche economiche fa sì che Mirafiori chiuda gli stabilimenti, la Pininfarina metta gli operai in cassa integrazione, tutto l'indotto dell'area torinese vada a rilento e quindi quegli operai che sono in cassa integrazione, alcuni vengono messi in prospettiva di licenziamenti, chiaramente non compra l'auto e quindi è un meccanismo a catena. È un meccanismo al quale il mese di ottobre ci ha già vaccinato perché chiaramente con il crack finanziario in sequenza giorno su giorno questo risultato andava atteso, un po' come in questa stagione uscire e non aspettarsi la pioggia è un po' da sprovveduto. Certamente. La pioggia è arrivata ed è ancora un meno 19%. Meno 19%, pesa in modo diverso a seconda delle marche, ma pesa soprattutto sui costruttori di volume, salvo un po' le nicchie dei brand premium, dei prodotti premium, ma incide pesantemente sulla massa dei potenziali acquirenti. Ecco, iniziamo da questi allora, soprattutto mi rivolgo a Ford, mi rivolgo a Opel, ad altri marchi, chi è che soffre di più? Beh, diciamo che la situazione è generale, salvo chi come Ford ha lanciato dall'inizio di ottobre la nuova Fiesta e su questa ha aumentato il proprio portafoglio anche di ordini con dei risultati immatricolativi che per quanto siano negativi, è un meno 9%, sono circa la metà di meno rispetto al generale andamento di calo. Tutti gli altri sono su quella linea, Fiat la marca a meno 16%, Volkswagen meno 17%, con dei casi particolarissimi, Toyota quasi almeno 50%, Opel almeno 30%, Peugeot allo stesso livello, si trova in meno 25% e c'è una situazione abbastanza ancora pesante per Renault almeno 35%. Questa è la situazione dei costruttori generalisti, ripeto, nessuno escluso, sono tutti in questa situazione. I brand invece premium, quelli un po' più in alto, si salvano. Molto bene, abbiamo parlato di Audi lo scorso mese, credo abbia fatto una buona performance con l'Audi A4 anche questo mese. Assolutamente sì, perché già il mese scorso avevamo avuto un aumento di Audi a due cifre, questo mese è la stessa cosa, in un mercato che cala il 19%, Audi come marchio cresce del più 17% e A4 è ancora nella lista delle 10 vetture in assoluto più vendute. Bene. Con Audi vanno relativamente bene, nel senso che calano parecchio meno di quanto cala il mercato BMW e Mercedes e anche Volvo a questo punto, e in questo modo aumenta il loro peso su un mercato che è calato più di quanto non siano calate le loro vendite. È chiaro, chiudiamo con il gruppo Fiat, in qualche modo si festeggia anche lì perché il calo è minore del mercato, professore. Sì, è minore del mercato perché alla fine il risultato delle nazionali va a circa un meno 13%, però anche lì c'è questa doppia faccia. Sono andate bene Lancia, nel senso che le vendite di Lancia sono le stesse dell'anno scorso, è aumentata la quota di mercato, si è mossa abbastanza bene Alfa Romeo e quindi anche qui i livelli premium del gruppo, soprattutto con le vendite di Mito e di Delta che cominciano a sentirsi pesantemente nelle classifiche di un mese di ottobre, sollevano un po' le sorti del gruppo, però chiaramente i prodotti di più grande volume tipo Grande Punto hanno un calo e nella famiglia Punto in generale in questo ottobre del 40% rispetto all'ottobre precedente. Certo. Sì, invece continua ad aumentare la quota di prodotti un po' più al top, un po' più trendy, anche se pagati di più, però è questa la tendenza. E questo 500, si sa, l'avevamo detto, la 500 non ha problemi in questo senso proprio in un momento di crisi. Grazie davvero per la sua completezza e chiarezza al professor Malagodi, che risentiremo ai primi di dicembre per i discorsi conclusivi dell'anno. Grazie professore. A presto, risentirci. Rimaniamo sul mercato, questa volta parliamo di valore del mercato. Non lo facciamo mai, lo facciamo in compagnia del direttore del Centro Studi Fleet e Mobility, Pierluigi Del Vescovo. Buonasera Del Vescovo. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Dunque, noi registriamo ogni inizio mese il mercato, lo analizziamo insieme al professor Malagodi in quanto a numeri. Voi avete fatto una cosa un pochino diversa che però ci dà indicazioni precise, cioè l'avete misurato in quanto a valore. Ci spiega intanto che differenza c'è? Sì, quello che noi facciamo da 2 anni è questo. Noi misuriamo tutte le vendite automobilistiche una per una, quindi 2.200.000 unità, li associamo, ogni vendita la associamo al suo prezzo di listino che si prende da 4 ruote e dal quale poi togliamo quello che è lo sconto medio, sì, che viene praticato, in modo da avere una fotografia di quanto gli italiani effettivamente spendono per l'automobile, che è un valore ovviamente molto più interessante a nostro avviso. Le dico che nel 2007 gli italiani hanno speso più di 45 miliardi di euro per acquistare automobili. Ecco, questo è per dare subito un dato per capire, esatto, la cifra globale, però poi andando ad analizzare così in profondità il mercato, evidentemente voi venite a contatto anche con i numeri, perché se il 2007 è l'anno di riferimento per voi, avete però già a marzo fatto delle stime su quest'anno, addirittura sull'anno prossimo, ce le racconta? Guardi, noi per quanto riguarda il 2008 a marzo abbiamo stimato, per conto di una importante casa automobilistica che ce l'ha chiesto, abbiamo stimato quale sarebbe stato il mercato e abbiamo previsto 2.167.000 targhe, che sono esattamente quelle verso le quali si sta andando e su cui oggi tutti quanti concordano. Ma abbiamo fatto anche di più. Venerdì alla Capitale Automobile, il nostro convegno annuale, abbiamo coinvolto tutti gli esponenti di concessionari e costruttori e altre associazioni come il leasing, il noleggio, chiedendo loro di formulare la migliore stima per il 2009, sì, e il numero che è venuto fuori è di 2.030.000 targhe, quindi 2.030.000. Sì, e questa è una diminuzione notevole evidentemente rispetto a quello che avviene negli anni precedenti, una grande contrazione, ma qualcheduno riesce a diminuire un pochino le vendite ma aumentare il prezzo. Chiudiamo con un esempio? Esatto, dalla ricerca, tornando alla ricerca del mercato a valore, sul mercato a valore, quello che noi abbiamo osservato per esempio è che la Volkswagen e anche il brand Golf in particolare sono riusciti a ad innalzare il loro prezzo medio di vendita delle automobili di circa l'11%, 10,9, 11,2. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che la Volkswagen ha ceduto qualche punto decimale in termini di quota a volume, ma ha recuperato qualche punto decimale e anche qualcuno in più in termini di valore, di quota a valore. Quindi ha fatto una politica di premium brand fondata sulla qualità, sulla immagine del brand, e questa è una delle strade che vengono percorse. Ci sono altri brand che invece si muovono in contesti completamente diversi. Esattamente al contrario, quindi vendendo più mezzi e magari abbassando il prezzo con una politica del risparmio per l'automobilista. Grazie davvero, ci risentiremo. Pierluigi Del Viscovo, grazie per la sua sintesi, a presto e buon lavoro. Grazie, buongiorno a tutti. E adesso ritorniamo alle 2 ruote e chiudiamo la nostra trasmissione iniziata proprio lì dal salone in attuale svolgimento, vi ricordo, fino a domani pomeriggio. Domenica. Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, buonasera e bentornato. Buonasera a voi. Caro Umberto, io le chiedo in 2 minuti di spiegarci una cosa molto importante, e cioè com'è possibile che in Italia ci siano 1.500 morti sulle strade per quanto riguarda le 2 ruote, che rappresentano il 26% della mortalità complessiva su tutte le strade. Le chiedo questo commento perché poi lei ci darà una eventuale soluzione per i prossimi anni per ridurre questi morti sulle strade. Guardi, innanzitutto c'è da dire che la mobilità sulle 2 ruote in Italia è particolarmente spiccata, nel senso che sia il clima che è favorevole, diciamo così, ma anche la congestione del traffico delle grandi città porta i cittadini ad utilizzare i mezzi a 2 ruote, quindi la densità, certo, di circolazione di questi veicoli chiaramente ne fa aumentare la probabilità di incidente. Accanto a questo però ci sono dei problemi specifici che riguardano le infrastrutture, soprattutto nei centri urbani, che favoriscono l'incidentalità delle 2 ruote, le buche, il manto stradale, i guardrail nelle aree extraurbane, sono tutti fattori di rischio per chi circola sulle due ruote, che già di per sé rappresenta un mezzo particolarmente vulnerabile. Eh sì, pericoloso per definizione, lo ricordiamo sempre, il baricentro è fuori dall'asse, non è come in auto che se si sta fermi si sta lì, in moto si cade, quindi è molto semplice, è già pericolosa per definizione. Figuriamoci poi gli altri, gli automobilisti contro i motociclisti, motociclisti spericolati, chi più ne ha chi più ne metta. Ma è un discorso di cultura, cosa si può fare per in futuro migliorare questa situazione fin dai più giovani, secondo voi? Guardi, noi abbiamo fatto uno studio specifico che, oltre a fotografare la situazione, ha portato alla definizione di un metodo statistico che ha dimostrato scientificamente l'esistenza di una relazione lineare, cioè di un rapporto diretto tra l'aumento della formazione e l'aumento della sicurezza. Formando meglio, educando meglio i ragazzi che si appropinquano a guidare un mezzo a due ruote, è possibile avere dei ragazzi che fanno meno incidenti. Noi per questo stiamo cercando di far capire al legislatore la necessità, per i ciclomotori, quindi per coloro che hanno 14 anni e si apprestano per la prima volta a guidare un mezzo a due ruote, di introdurre obbligatoriamente la prova pratica per il conseguimento del patentino. Oggi è sufficiente sostenere un esame teorico facendo 8 ore di educazione stradale all'interno delle scuole, certo, per poter mettersi in un traffico caotico come quello di Roma, come quello di Milano, come pericoloso, quello di Napoli, sì. Ad un 14enne che non ha mai condotto un mezzo se non la bicicletta. E questo bisogna decisamente cambiarlo, siamo d'accordo. Grazie alla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, Umberto Guidoni ne è segretario generale. A prestissimo, grazie Guidoni. Grazie e buona serata a tutti voi. Con la voce di Umberto Guidoni termina anche la nostra trasmissione, che torna puntualmente sabato prossimo alle ore 21, Radio 24 insieme a Quattro Ruote per tante notizie sui motori. Da Roberto Rasì al microfono, da Carmelo in regia, grazie per l'ascolto, ma soprattutto buona guida, divertitevi in sicurezza. Ciao!